sbatti luce, sbatti domani, ti crepano la breve trasmissione. E poi molte volte il problema sono i carburatori, che se non li scarichi bene la benzina e tutto quanto, non gliela fai consumare, si forma una patina, sono lamelle talmente sottili, si incollano e le devi portare a lavare con l'ultrasuono, se no te li rapi, ti fanno uscire di testa. E infatti dicono, non che non sei un professionista, compri un decespugliatore di ghidi da 13, che come si rompe lo prendi e ce lo butti, quelli di Ibrico da 90 euro, lo ti fa la stagione, se ti fa la seconda è troppo, se no te lo rapi, perché se vai a riparare un decespugliatore hai finito, iniziano le spese, ti costa più che comprarlo nuovo. Guarda, io quello, cioè quello di Bricom è proprio, come stai dicendo tu, c'è 8 anni e sta sempre funzionando. Mi sembra, cioè, se, oh, non mi ricordo se ha fatto l'ottavo anno con quest'anno. Sempre funziona. Perché? Perché io anzitutto lo tratto bene. Li metto sempre olio buono e non ho mai ingrippato. Dipende sempre come si usa. Dipende sempre come si usa. Poi chi si giarlatana in inocchi di zazzari, i meccanici sono. Ma che me la finiscano, va. C'è un po' di gente presuntuosa, gente che sa ripararli, ce ne sono ben pochi, e te lo garantisco, perché noi, non sai quanti, non io personalmente, ma mio fratello ne avrà crepato manco una quindicina. Mi l'altro giorno ti ho raccontato, un mezzo fa sono andati tutta una gombricola, 15 persone, tutti tagliando, eppure uno nuovo me si è crepato, però uso gravoso, tagliando un bel di roba dalla mattina alla sera, ore e ore di lavoro, alla fine uno si è crepato, e questo era buono, non era una cagata, costava 300 euro, eppure si è crepato anche quello lì, ha dovuto smontare, cambiare il pistone, aggiungere un pistone che costava più di rugoso, deve essere spugliato, e poi costava 60 euro solo il pistone, poi il cilindro, meno male, era carteggiato piano piano, è riuscito a recuperarlo, e ci ha speso una 60 euro di pistone, però se fai danni ad abili di trasmissione e cose del genere, cacchio, la musica giamma, un bel... Cata, ma è crepato ora! C'era usato tanto, cos'è? Mono... Ma sa chi sono i peggiori, secondo me? Il monofascia. Chi si dà un dottore di travaglio si barrane. Allora, io ti dico una cosa, infatti ci abbiamo sempre sconti con mio fratello. Come le monete e come i trapani, ormai non conviene più investire in soldi, cacchio, noi abbiamo un trapano della Steyr, non so se lo conosci come marchio, all'epoca era il top, parliamo, questo trapano secondo me ci avrà 40 anni, uso gravoso, di tutto e di più ne abbiamo fatto con questo golpe, puntamenti di coso, sempre andando, non abbiamo fatto niente, gli altri massimo si fanno 2-3 anni in officina e si crepano, così le monete, come si rompono, si rompono, infatti ho detto, è inutile che spendi 300 euro per una moletta e si crema al mattesimo, magari ti dura un po' di più, perché poi vai a riparare e te ne compra, preferibile comprarne 3 da 100 euro, ci si rompe e ti prendi l'altro, a questo punto stanno facendo così, è quello che dico sempre a mio fratello per i cespugliatori, è inutile ci spendi 300-400 euro, tanto magari ti dura 2 anni in più e ti si crema al mattesimo, tanto vale che ne prendi 3, con il prezzo di quello te ne compri 3, ci si rompe il mobile e te lo rompe, a meno che non spendi per quelli a 4 tempi anche 1000, 1200, 1300 euro, quello è tutto un altro tipo di prodotto, perché c'hai un pistone più grande, non scalda come due tempi, eccetera eccetera, però stiamo parlando già di altri tipi di cose, quelli li usano i professionisti, quelli che fanno solo quel lavoro lì dalla mattina alla sera per giorni e giorni, di lì ti dovrà, però per un uso come lo facciamo noi, che ogni tanto ti tagli un pezzo di cosa e prendi uno di questi a 100 euro finché ti dura lo tieni e poi te lo rampi. Bisogna stare molto attenti con gli oli sono la rovina di quei motori, sono, magari pigli un oli sbagliato che non serve a nulla e lo crepi il motore. Lo so, questi erano tutti in fila dei cespugliatori, tutti con lo stesso miscela, perché avevano fatto il bidone a 20 litri, tutti uguali, eppure uno si è crepato. Quello buono, tra l'altro uno di quelli buoni se ne è rotto, non mi ricordo che marca era, non è la marca da 13. però poi ci sono quelli super buoni, quelli tedeschi, cacchio, quelli sono, ma li ho visti lavorare e ti metti le mani in testa, a parte la silenziosità, la forza di cosa ne parlo, le motoseghe, le hai mai viste tu le skill, le motoseghe, cattano le cose luce, cosa tagliano e con che potenza. La steel, dite che è buona. Quella lì, quella bianca, cacchio, cioè è una cosa, io ho visto la dimostrazione a Orizzano, c'era una ditta che le stava portando di fuori, di, non so dove cacchio era, sono tedeschi, c'era un camion, ti facevano entrare dentro, le provavi, c'erano dei cespugliatori e le motosseghe, ma tu devi vedere, costavano più di 1000 euro l'uno, il più scaccino non meno di 1000 euro, ma tu devi vedere cosa tagliavano e che, con che potenza, cioè io sono rimasto a bocca aperta, questi sì che sono apparecchi, è come che tu ti poni a tagliare seghetto e chi tu tagliavi una motosega, la stessa cosa, la velocità di queste cose, ma tronchi proprio, e poi silenziose, non era di quelle che ti facevano assurdi. Lo so già, io sai cos'è, come tutte le cose, roba, però funziona, i vecchi sono nuovi, prova a farli invecchiare, era travagliato tanto, poi bisogna vedere, lavorando tanto come sono. Vabbè, ma quando tu inizi a avere gli ingranaggi, tutte le viterie, tutte le cose, i materiali di acciaio di qualità, dati in abisso la differenza. Certo, io non li spenderei mai più di 1000 euro per una motosega o un decespugliatore, però quelli che fanno certi tipi di lavoro gravoso e cose, dicevo, voglio una cosa affidabile che mi duri 10 anni, che ho un po' la manutenzione, eccetera, eccetera. Come i motori marini, ci sono quei motori che dopo 2 anni cominciano a aprirsi nei betti, e poi ci sono quei motori di un certo livello, fatti, costruiti con un certo modo, con muloneria di qualità, c'hai ad alta resistenza, e quelli ti durano 30. Io c'ho il Johnson mio, ma ne avevo uno che l'ho venduto, c'aveva già 20 anni quando l'ho fatto io, ma stavo parlando, mi pare, nel 93, una cosa del genere, 93, e c'aveva già 20 anni questo motore, e sta ancora andando, il proprietario mi ha detto, questo motore sta ancora, fa 50 anni ed è ancora camminente. Lo so già, chi non muore ne mai, non muore ne, andare sempre, se tu li fai la manutenzione quelli ti durano una vita. Sì, già lo so, poi fai trovi, quando c'è stato il periodo di Yamaha, del top 700, Yamaha tanto di cappello, nei motori a 2 tempi, a 4 tempi, tanto di cappello, niente da dire, è il top sempre, però quando aveva fatto il motore, il top 700, quando era il limite della patente, no, i 25 non potevi andare oltre, era il motore più performante di tutti perché era di cilindrata grande, eccetera, ma sai come si spaccavano quei motori, gli alberi di corso, appena si vedevi Johnson il 521 invece, motori lenti, che magari non camminavano, però non si facciavano mai, non ti lasciavano mai a piedi, ma lo Yamaha era un gioiello della tecnica, super, un orologio, ma grande, faceva che cosa, ci buttava il motore, non c'era niente da fare, aprivi il motore Yamaha ed era frantumato, vedevi Johnson, cacchio, tutto in treo, l'albero in ghisa, la trasmissione in ghisa, robusti, non ne ho mai visto uno rotto di motore coso, di Johnson 521 di albero, Yamaha i 3 cilindri ne rompevano a uffa, perché come andava a fuori giri, se prendevi, uscivi dall'acqua con l'elica, capitava l'elica, o prendevi una busta, boh, spaccato l'albero motore, Johnson mai, ti troncavi l'elica in due, però il motore albero non ne ho mai visto, e così sono anche questi, queste cose nuove, di questi cespugliatori, se uno lo costruisce con i giusti criteri, già dura, però ormai c'è il mercato di fare le cose in grande quantità. Suzuki è buono come motore marino. Io non ho capito. Suzuki per un periodo era il miglior motore a livello costruttivo, non detto da me, detto da un amico che lui aveva la concessionaria Suzuki, Johnson a Porto Torres, e mi ha detto, il grande meccanico, questo ha lavorato in tutto il mondo come meccanico di motori marini entro bordo e fuori bordo, ha detto numero uno qualitativamente Suzuki. C'è da dire, adesso si stanno un pochettino equiparando come qualità, perché tanto i marchi sono sempre quelli, ci sono delle ditte che ti costruisce il cilindro, l'altro ti fa i pistoni e sono tutti gli stessi fornitori, poi loro assemblano, chi costruisce come quando c'era la cosa, la Yamaha, i motori li faceva la Toatsu e li marchiavano Yamaha, poi la Toatsu li faceva la Johnson, eccetera eccetera, ormai è diventato la Suzuki, poi gliel'ha fatto un periodo la Toatsu, li ha fatti anche la Suzuki per i piccoli, è diventato un miscuglio, però la Suzuki di 20 anni fa, 30 anni fa era qualitativamente, era tutto tutto in acciaio inox, tutta la bulloneria, tutte le parti che si potevano mettere in acciaio erano in acciaio. Poi c'erano i Mercury, motori veloci, ma va bene, tanti di questi problemi, cavatela altro. Lo so già. Quello del mio principale, cioè del figlio del mio principale, ci ha preso un gommone e un tre cilindri Suzuki un 40. E va bene, cavolo. No, Suzuki è l'ultimo motore. Nei quattro tempi attualmente la Yamaha è un gradino leggermente sopra l'altra, anche se c'è da dire, se vuoi più prestazioni c'è la Mercury, ha tirato fuori qualche motore discreto, più performante. La Suzuki c'ha un motore di più spinta. Il top erano i motori che adesso purtroppo ha mollato l'attività, le Tech, i due tempi a iniezione diretta, quelli hanno ammazzato tutti, quei motori lì erano allucinanti. Speriamo che li rimettano di nuovo in circolazione, perché quelli hanno crepato a tutti, costavano più degli altri, erano motori di prestazioni allucinanti, consumi ridottissimi, pur essendo due tempi, silenziosità, era una rivoluzione, hanno fatto quei motori, la serie Tech della Evenroot. Sono motori buoni, Honda, ma te se non ti grighi sia chissà cosa, no, mi hanno detto a me, tutto per sentito dire, però questo Suzuki che ha, cavolo, è una bomba, in mare proprio va bene, va, poi quello che ha lui c'è la centralina pure, appena appena modificato e cammina ancora di più. Sì, infatti sono tutti rimappati, trovare uno 40 cavalli originale è rarissimo, tutti normalmente li portano a 60, qualcuno a 70, eccetera, eccetera. No, Honda non neanche regalo li voglio, motori. Sono motori poi derivati da motori automobilistici, li hanno riadattati, hanno un sacco di problemi, no, rumorosi. Io diciamo un po' di esperienza, riconosco, perché se non ce l'ho io il motore ce l'hanno amici e ti so dire se uno serve o l'altro non serve. Honda non è un granché, sono un po' indietro come motore, adesso stanno cercando di riconquistare il mercato, ma se tu vuoi motori validi devi andare su Yamaha, qualità prezzo sono i migliori, poi ci sono di qualità leggermente migliore i Suzuki e poi ci sono i Mercury se vuoi prestazioni, sono motori super potenti eccetera. Poi il topo della tecnologia ce l'aveva l'Evro della serie Tech 2, l'ultimo modello erano la fantascienza, erano quei motori 5 anni senza manutenzione garantiti erano, non c'era bisogno di mettere l'olio, non so quante ore dovevi fare di ore di navigazione, anche se era due tempi, c'aveva la lubrificazione 0,2%, una cosa impossibile, con un serbatoio di 10 litri non so quanti anni ti rimaneva l'olio, ovviamente era un motore di fantascienza, bello, proprio anche bello a vedersi. Erano motori buoni, poi c'è anche quello che usano i pescherecci, cavolo, lì ci sono motori buoni, mi durano eterno. E tutto dipende dall'uso che ne deve fare. I pescherecci hanno motori diciamo abbastanza che hanno coppia, non hanno potenza però hanno molta coppia perché devono spingere, non hanno velocità, hanno lì che di spinta, girano a pochi regimi, a bassi regimi, per cui non hanno necessità di giri, per cui sono molto più durevoli come durata. Uso gravoso, quelli puoi tenere attaccati 24 ore su 24 e andare sempre. Sono motori molte volte, quelli piccolini si parte da Lombardini fino a salire su con tutti gli altri marchi, dall'Ifo e poi salendo ancora di più ci sono i Deus, Caterpillar, Man, di tutti i tipi ce n'è e di tutte le potenze, però i piccoli Lombardini, quelli che li trovi nei gruppi elettrogeni, nei coso, nei motocoltivatori, sono eterni, quei motori lì, il 13 cavalli Lombardini, che ce l'hanno quasi tutti i gruppi elettrogeni e quasi tutti i motocoltivatori, le pescherecce vanno alla grande, sono motori eterni, camminano in burro, se ci metti petrolio camminano lo stesso quei motori di Motori buoni sono, motori buoni. C'era anche una di una marca italiana lo stesso che faceva a Bumba, non mi ricordo, faceva motori buoni. E la VM di 100, la VM per un periodo è stato leader mondiale nella produzione dei motori diesel, ne ha fatto tanti. Io sto parlando di piccoli motori Lombardini, parliamo di piccoli motori perché non arriva a potenze alte, piccoli gozzetti e cose del genere. Cacchio, poi abbiamo l'Isotta Fraschini, cacchio, quella non la dimentichiamo, ha vinto migliaia di gare e campionati del mondo, sono motori ad altissime prestazioni. Cioè abbiamo un po' di tutto, gli iPhone della Fiat, lo stesso, che adesso non si chiamano più iPhone, hanno cambiato nome. nome, non mi ricordo come si chiama, però è sempre Aifo della Fiat, sono motori eccezionali, arrivano fino a 2000 cavalli, mi sembra 2-3000 cavalli. Poi se vuoi ancora meglio devi andare sull'Isotta Fraschini, che sono a livello mondiale peso potenza, sono pochi motori sono più potenti e più leggeri dell'Isotta Fraschini. E poi se vuoi qualità, durata, ci sono i motori Caterpillar, i Deus, i MAN, quelli di potenza oltre 10.000 cavalli, e quelli lì si fanno quello che vogliono. Isotta Fraschini, azienda italiana mi pare. Certo, Isotta Fraschini ha iniziato a fare motori di aerei dai tempi della prima guerra mondiale e poi ne ha portato cose, ma i motori da competizione, quelli offshore con le marche d'altura che fanno le gare, molti sono motorizzati Isotta Fraschini. Le macchine delle marche americane d'altura, grosse, alte prestazioni, hanno motori Isotta Fraschini. Perché quelli marchi che ti ho nominato, Caterpillar e cose del genere, non fanno velocità, fanno durata, motori da durata, uso continuativo. Però se devi avere prestazioni ci vuole peso, leggerezza e numero di giri alto. Isotta Fraschini sono quei motori lì, cavolo, quelli, mi sembra Destriero, quello che aveva fatto il record della traversata dell'Atlantico, c'è un motore Isotta Fraschini. Poi ce ne sono anche altri di motori italiani di altissime prestazioni. Sì, gli italiani comunque hanno sempre fatto motori buoni, Kappa. Cioè sempre motori come si deve. Allora di Regna non lo so che motore va, se sono motori italiani. Che cosa? La Tirrenia. No vabbè, di lì è tutto un altro discorso, lì ci sono turbine a gas, cioè ci sono, diciamo, principi di combustione completamente diversi da quelli che possono essere i motori a scoppio, ma di lì sono dei palazzi, sono delle cose altissime. La Tirrenia mi sembra che abbia intorno ai 60.000 cavalli, cioè sono delle cose allucinanti, sono delle strutture enormi, ci sono dei cilindri, cacchio, delle cose di produzione di gas. Che ci stai dentro tu, dentro il cilindro? Normale. Anni fa dicevano che erano a due tempi queste navi, questi motori enormi. Sì, vero, ancora adesso sono motori a due tempi, ce ne sono molti di cose, sono motori semplicissimi come tecnologia, però hanno delle potenze strabilianti. Devono essere così, due tempi come rapporto. Allora, per avere la stessa potenza, un motore a quattro tempi deve avere quattro fasi, mentre due tempi dimezza il numero delle fasi, per cui il rapporto che l'energia che può creare un motore a due tempi è esattamente il doppio di quella che può creare un motore a quattro tempi, a parità di costruzioni, numero di cilindri, eccetera, eccetera, cilindrate. Ma sono più bruciati di queste navi, cioè 2 tonnellate di combustibile mi fa bruciare, cioè per far andare quella nave. Guarda, le navi è la cosa più inquinante che possa esistere sulla faccia della terra, perché usano i carburanti più poveri, sono olio combustibile, usano, non usano gasolio, quello di autotrazione, cosa del genere. Per cui l'inquinamento maggiore nel mondo, noi diamo tutte le colpe alle industrie, lo fanno le navi che ce ne sono nel mondo, ce ne sono migliaia e migliaia, per non dire milioni, queste grandi navi hanno degli inquinamenti allucinanti, è la parte più sporca di tutto il petrolio, è questo olio combustibile. Beh certo, devono usare non possono usare un gasolio raffinato, devono utilizzare un carburante molto povero, cioè, perché se no costerebbe un botto, costerebbe. Già lo so. Infatti poi ci sono, quelle producono del coso, ci sono delle caldaie, producono delle, tipo le locomotive vecchie, una cosa del genere, e poi comprimono, ci sono dei pistoni, comprimono e generano il moto della nave, mica non è come i motori che utilizziamo normalmente noi, ci sono le turbine, le navi di una certa potenza hanno le turbine a gas, le navi militari non hanno motori normali. Beh, normale, se no ce la farebbero. Noi invece abbiamo i piccoli motori fuori bordo, da 4 cavalli, l'anno scorso ne ho venduto uno, ne avevo 4 cavalli, ma una ruta l'ho idratato, cioè avevo 3 o 4 anni fermo, e alla fine l'ho svenduto a un amico, al cugino, la moglie di mio fratello, mi ha detto dammelo, te l'ho quasi regalato. sei vicino, cosa era? Un gommone piccolino. Però, ma tu lo sai quanto spinge questo motorino? Siamo rimasti a bocca aperta, era fermo da tanti anni questo motore, anche se era nuovo, fiammante, perché non aveva piegato niente. Cacchio, è partito al primo colpo, era fermo 4-5 anni. L'ha messo in una barchettina, c'era una barchettina di 3 metri e coso, 4 persone e riusciva a farla camminare. C'era il motore Honda a parità di potenza, leggermente di meno, giù mai ma così muovia, non camminava la barca, con un motore a 4 tempi. Johnson a 2 tempi, una spinta impressionante. Infatti sono rimasto a bocca aperta, e mi è rimasto entusiasta. E poi mi è rimasto, vabbè, con l'attaccata alla barca, 70 cavalli alla Johnson, quello è un treno di motore. Sarà all'inizio un po' fumoso perché è vecchia generazione. E poi c'ho un vecchio 2 tempi della Mercury, della guerra, nuovo, quello l'avevo rifatto totalmente a nuovo, riverniciato tutto, ed è del 1978. Però se tu lo vedi, ma riscende dal negozio, però è gambo lungo, infatti non so cosa farne, quello va bene come ausiliario oppure qualche barca che c'ha e per fare la pesca, dai. Vabbè, quanti cavalli va? Mi sembra che sia 9-8, quasi 10 cavalli, dai. Capa. È un gommoncino, già lo tira. Ma lo sai cos'è il problema? Che è un gambo lungo, questo va bene come cosa, una barca a vela per manovrare, oppure quando devi trainare, se c'hai lo specchio di poppa alto te lo metti dietro, perché un gommone grosso normalmente dopo i 4 metri e mezzo c'hanno lo specchio di poppa alto, e in un gommoncino rimane troppo appoppata, cioè troppo immersa il piede, per cui rimarrebbe troppo in profondità e non rende il motore. Però vabbè, se uno tanto va a farsi la passeggiata già andava. Allora, ho visto una scena, guarda, mi ha fatto troppo ridere. I cinesi ti vendono una specie di tubo, ci chiamiamolo un asse, dai, tipo un decespugliatore, cioè presente, l'ambito di trasmissione del decespugliatore, con un'elica, e ti danno un supportino da attaccare dietro nello specchio di poppa dove attacchi il motore di un canottino, dai, di roba piccolina. Ci attacchi il trappo alla batteria, questa cosa qua, e ti fa il motore e cammini con il trappo alla batteria. Allora funziona, a me, ti tira una potenza ridicola, però in posti dove non c'è onda, in lago, posti così, con un canottino piccolino di 2 metri e mezzo, riesci a farlo muovere. Questa è una cosa che fa derridì proprio, roba. Aspetta un attimo, scendo giù in bagno. Ehi, veloce che tra poco devo andare via. Vediamo qua sul canale 10 se è rimasto qualcuno, attenzione che vuole entrare. Vabbè. No, ti stavo aspettando, tu, perché anche io su chiudo, dai. Vado un pezzo di televisione così mi si dromo, sto dormendo male la notte. Dai, ti saluto, tu, dai, ci sentiamo magari domani se coincide. Ciao ciao. Ciao ciao, Robert, ci sentiamo.